Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani, ben trovati a Salva Danaio. Allora, finalmente siamo arrivati ad organizzarvi la puntata che ci state chiedendo da diversi giorni, e cioè la puntata dedicata al collocamento delle obbligazioni Enel, che ha preso il via ieri. Un'operazione da 2 miliardi, estendibile fino a 3, a seconda di come sarà la domanda, immaginiamo, con destinatari dell'offerta, oltre ai risparmiatori italiani, anche francesi, belgi, lussemburghesi e tedeschi. L'obbligazione si potrà sottoscrivere in banca fino al 26 febbraio. Ci sono due opzioni, una a tasso fisso, una a tasso variabile. Tra l'altro si tratta di un'operazione interessante proprio per quella caratteristica che vi dicevo: la prima volta che una società emette obbligazioni per i piccoli risparmiatori, non solo nel suo paese d'origine ma anche in altri mercati europei. È il terzo bond che negli ultimi anni Enel riversa fra i piccoli risparmiatori, dal 2005 esattamente. Lo scorso anno c'è stata un'altra grande operazione straordinaria sul capitale del nostro colosso elettrico, l'aumento di capitale da 8 miliardi, quindi un aumento di capitale abbastanza importante, imponente, insomma operazioni con le quali il gruppo chiede fiducia al mercato e agli investitori per abbattere il debito ma anche per continuare a crescere. Noi stamattina, senza ovviamente, come sapete bene, fare valutazioni o meno sulla convenienza di aderire a questo prodotto di investimento, cercheremo di capire come funziona, quale sarà il possibile rendimento che si potrà appunto spuntare una volta sottoscritta questa obbligazione, e cercheremo di interpretare bene le due opzioni, ma soprattutto faremo anche un confronto interessante su come sono andate le azioni negli anni da quando la società si è privatizzata appunto 10 anni fa, visto che questo è il classico titolo da cassettista degli italiani. Sarà appunto interessante fare una valutazione anche da questo punto di vista. Allora, 800 24 00 24, il numero verde per interagire con noi, ma soprattutto con Maria Adelaide Marchesoni, collega del Sole 24 Ore, responsabile dell'ufficio studi del gruppo. Maria Adelaide, bentornata. Salva, buongiorno, buongiorno a tutti, ciao Deborah. Allora, e poi un saluto, bentornato, a Jacopo Ceccatelli, strategist del settore obbligazionario di JC e Associati. Buongiorno. Buongiorno. Allora, il numero verde ve l'ho ricordato per i vostri interventi in diretta, il numero per i vostri messaggi 349 238 6666. La borsa questa mattina, allora, borsa che era partita speditissima ma adesso affievolisce un po' i guadagni su alcuni fronti. In realtà Londra e Francoforte stanno rimanendo in avanzata un po' più sostenuta rispetto alle altre piazze, guadagnano quasi un punto, nonostante l'indice di fiducia tedesco ZEV sia risultato inferiore alle attese. Il mercato sta andando benino, infatti guadagna lo 0,84% esattamente adesso la piazza tedesca. Parigi più 0,56 e Milano, che pure guadagnava oltre un punto in avvio insieme alle altre piazze europee, adesso ha ridimensionato notevolmente la sua corsa. Abbiamo un più 0,34% sul FTSE MIB a Piazza Affari. Era partita molto bene Mediolanum, ma guadagnava quasi 4 punti fra i migliori titoli, adesso è a più 2,18%. La scavalca Buzzi Unicem con un progresso di 3 punti. Parmalat più 1,62%, Tenaris più 1,60%, Telecom più 1,48%. Vanno benino, andavano molto meglio fino a qualche minuto fa i titoli bancari. Dopo i conti di Barclays pubblicati in Gran Bretagna, il titolo guadagna sulla City, sulla piazza appunto inglese, il 7%, adesso lo vediamo, più 6,25 in questo momento. Porta con sé gli altri titoli del settore: Lloyds più 5, Royal Bank of Scotland più 5 e un po' tutti gli altri titoli europei. Per esempio a Parigi Société Générale guadagna il 2,80, il Crédit Agricole più 2,49%. Vediamo un po' invece, tornando a Piazza Affari, i ribassi. C'erano pochi titoli negativi fino a qualche minuto fa, adesso invece la lista si è allungata sensibilmente, e comunque a guidare al ribasso è Saipem meno 1,34, Medias in ribasso di un punto, in pregilo meno 0,7 con Intesa San Paolo e CIR meno 0,50, quindi vedete anche i titoli bancari, per la verità, non vanno tutti nella stessa direzione. Lasciamo la borsa, rapporto euro-dollaro in vista dell'Ecofin a 1,36,46, naturalmente occhi puntati ancora sulla situazione greca. Dopo questo braccio di ferro che si è ingaggiato ieri fra l'Eurogruppo e il governo di Papandreou, appunto proprio per ristabilire ordine nei conti della Grecia, e l'Eurogruppo ha chiesto misure più severe alla Grecia, la Grecia ha detto più di così non possiamo fare, vedremo come si risolverà tutto questo. In realtà non guardava con tanta preoccupazione il mercato azionario alle vicende di Bruxelles, vedremo oggi cosa succederà. Lasciamo la borsa, andiamo invece al tema di oggi, continuiamo a monitorare l'andamento dei mercati, ma soprattutto il collocamento di questa super obbligazione di Enel, un'operazione, come vi dicevo, da 2 miliardi che potrebbe crescere a 3. La domanda è molto fitta stamattina, un bilancio lo fa il Sole 24 Ore, pagina 39 di Finanza e Mercati. I 34 istituti di credito su tutto il territorio che stanno collocando il bond stanno dicendo che la domanda sta andando piuttosto bene, meglio del previsto. Saranno contenti i vertici del gruppo che, per la verità, un'adesione così importante se l'aspettavano. Noi abbiamo sentito nei giorni scorsi il direttore finanziario di Enel, Luigi Ferraris. Sentiamo lui che ci spiega appunto i dettagli di questo maxi collocamento. L'offerta è di 2 miliardi, elevabile fino a un massimo di 3 miliardi in funzione della risposta del mercato, e riguarda emissioni sia a tasso fisso che a tasso variabile. Per quanto riguarda il tasso fisso, è legato al tasso mid swap a 6 anni con uno spread che si prevede all'interno di una forchetta che va da 65 basis point a 125 basis point, così come per quanto riguarda il variabile sarà legato all'Euribor a 6 mesi più lo stesso spread. La scadenza è fissata in 6 anni. Noi lasciamo la scelta al mercato e ai risparmiatori, quindi estremizzando potrebbe essere quasi tutta a tasso fisso o viceversa a tasso variabile. In questi giorni ci sono diverse scuole di pensiero su quella che può essere l'evoluzione dei tassi nei prossimi mesi e anni. C'è chi si schiera verso ipotizza una ripresa dell'inflazione e quindi dei tassi, o viceversa chi invece ritiene che ci sarà una ripresa molto graduale e molto lenta. Noi offrendo con estrema trasparenza e semplicità un prodotto come questo, lasciamo poi la scelta ai nostri investitori e ai nostri risparmiatori. Allora, come avete sentito l'intervista, non si è sentito chiaramente, però era di Sebastiano Barisone, andata in onda nei giorni scorsi a Focus Economia. Prima di cominciare a chiacchierare con Maria Adelaide Marchesoni e Jacopo Ceccatelli, vorrei sentire una domanda di Giuseppe da Vicenza, perché ci dà modo di iniziare la nostra conversazione proprio dall'ABC del prospetto informativo. Speriamo di poter riuscire a rispondere. Giuseppe, benvenuto a Salva Danaio. Sì, grazie, buongiorno a lei Deborah. Volevo solamente chiedere, ma forse la risposta è abbastanza scontata, perché dopo che ho fatto la domanda ci ho meditato un po' su. Vabbè, proviamo se possiamo rafforzare o rinforzare le sue convinzioni, Giuseppe. Sì, sentiamo. Certo. Magari la sua domanda se la stanno facendo in molti e non hanno trovato ancora la risposta. Benissimo. Si diceva appunto che poteva essere aumentata l'offerta da 2 miliardi a 3 miliardi. Ma mi sono subito chiesto appunto questa mattina, quando la mia banca mi ha telefonato, dove ne avevo prenotati 3 miliardi, non 3 miliardi. Magari, se questa disponibilità sul conto. 30.000 euro avevo prenotato, no? E mi hanno invece risposto che era possibile solo prenotarne 10. E allora mi domandavo, ma com'è possibile, come fanno a stabilire se puoi aumentare da 2 a 3? Ma probabilmente perché se poi c'è qualcuno escluso sicuramente verrà ripescato. Giuseppe, sentiamo un po' se questa sua interpretazione di come potrebbero andare le cose è corretta. Vabbè, intanto, come dire, Giuseppe ci ha dato modo di chiarire un aspetto, Maria Adelaide, se mi vuoi aiutare tu, sul taglio minimo di questo investimento. Allora, un'obbligazione da 1.000 euro. Sì. Aspetta, che adesso prendiamo il prospetto. Sì, ma sì. Magari vado da Jacopo Ceccatelli, sì. Intanto che Ceccatelli, intanto vabbè, partiamo dal primo aspetto chiesto da Giuseppe. 2.000 euro. Sì, infatti, no, sì. Ceccatelli. Sì. Perché un'azienda dice che da 2 miliardi collocati sul mercato, insomma, può aumentare anche a 3, perché già prevede che la domanda potrebbe essere molto alta e non gli pare vero, insomma, di poter raccogliere tutto questo denaro sul mercato, quindi ne approfitta. In un certo senso, le operazioni di finanziamento ovviamente di una società come Enel sono molte nel corso dell'anno. Questa è un'operazione molto impegnativa dal punto di vista dell'organizzazione e quindi chiaramente presuppone un importo significativo, quindi 2 miliardi è già significativo. È chiaro che se, diciamo così, come ha detto anche nell'intervista, ci dovesse essere una fortissima domanda, l'azienda si riserva la facoltà di aumentare i titoli offerti e questo può essere visto nei due sensi, perché da un lato chiaramente è un'opzione in più, se vogliamo, che ha in mano la società per decidere quanto finanziarsi in questo momento a queste condizioni. Dall'altro però è anche può essere visto come una forma, se vogliamo, di non di tutela ma di attenzione nei confronti degli investitori, perché se effettivamente poi ci dovesse essere una domanda molto superiore ai 2 miliardi si dovrebbe andare a riparto o all'estrazione, e quindi da questo punto di vista si accontenterebbero meno investitori. Io tra l'altro non ho visto il dettaglio del prospetto informativo, mi sono presa delle sintesi perché non avrei avuto il tempo di studiarmelo tutto, però mi era sfuggito questo aspetto relativo al fatto che per un piccolo risparmiatore non si possono sottoscrivere più di 10.000 euro di obbligazioni, quindi sono teoricamente 10 perché... 5 lotti. Sì, sono 5 lotti, quindi 10 e obbligazioni. Forse per quello che la sua banca ha dato la disponibilità per i 10.000 euro di sottoscrizione. E quindi non di più. Ceccatelli, voleva aggiungere qualcosa su questo? Ma è chiaro che questa emissione, cioè, va nel canale, se vogliamo, nella strada tracciata da Enel negli anni di grande attenzione ai piccoli risparmiatori, è prevista una grande partecipazione, quindi anche l'importo, come dire, il massimo per la clientela retail va in questo senso, io credo. No, magari, che ne so, se poi decidesse di aumentare il collocamento e aggiungere quest'altro miliardo, magari potrebbe anche riaprire... Maria Adelaide, delle porte a chi è rimasto scontento prima o chi non ha sottoscritto, non è riuscito a sottoscrivere tramite il proprio istituto il prestito obbligazionario. Adelaide, perché una società come Enel emette un'obbligazione di questo tipo? È la terza volta che lo fa dal 2005? Sì, esattamente, è la terza volta che lo fa dal 2005. Allora, lo leggiamo anche nel prospetto informativo, perché tra le altre, diciamo, operazioni che hanno richiesto l'emissione di questo prestito obbligazionario, vi è anche il rifinanziamento, un riscadenziamento del debito. Se noi guardiamo la tabella di scadenza dei debiti del gruppo Enel, vediamo che nei prossimi 12 mesi sono in scadenza esattamente 2 miliardi e 638 milioni. Quindi come fa uno Stato che ad un certo punto immette sul mercato nuovi bot perché deve evidentemente rifinanziarsi, anche il gruppo Enel, anche le aziende, e non solo il gruppo Enel, ovviamente lo fanno, hanno delle scadenze in atto e quindi si coprono poi queste scadenze con altre emissioni. C'è da dire che all'interno di questo prestito obbligazionario servirà anche a non rimborsare debiti che erano a servizio di altri prestiti obbligazionari, ma nel prospetto informativo questi andranno a soddisfare quello che era il debito bancario. E tra le banche che aiutano a sottoscrivere, che portano il collocamento di questo prestito obbligazionario, ci sono alcune che erano già impegnate col gruppo Enel, le principali banche italiane. Vuole abbattere il debito Enel, peraltro il gruppo ha detto adesso ne ha 50 miliardi di indebitamento. A fine 2010 vorrebbe ridurla a 45, ma emette sul mercato obbligazioni per 3. I conti non tornano, Maria Adelaide? No, non tornano, ma il gruppo Enel ha in previsione dismissioni, e le dismissioni da qui al 2013 sono per 10 miliardi di euro. E in più c'è anche un'altra operazione che il gruppo vorrà fare, che non andrà a colpire l'indebitamento, ma si parla di Energy Green Power, no? Che dovrebbe andare sul mercato e raccogliere risorse per poter finanziare i propri investimenti. Adesso torneremo invece sul contenuto dell'offerta, come si potrà calcolare il rendimento delle due obbligazioni, perché naturalmente il rendimento esatto verrà comunicato solamente al termine del collocamento, quindi il 26 febbraio, e quindi adesso si tratta solo di viaggiare nell'ordine delle ipotesi. Ci sono dei range da valutare, adesso ve li diamo. Allora, stamattina stiamo parlando del collocamento del bond, della obbligazione Enel, partito ieri, si protrae fino al 26 febbraio. Per adesso sul mercato Enel colloca obbligazioni per 2 miliardi tra il pubblico indistinto, un'operazione che potrebbe essere ampliata a 3 miliardi. E allora ci sono alcuni ascoltatori che ci stanno aiutando con delle precisazioni. Per la verità ci stavamo documentando proprio con Maria Adelaide Marchesone, microfoni spenti, sull'aspetto sollevato da uno ascoltatore all'inizio della trasmissione, che ci ha raccontato che in banca non gli hanno permesso di prenotare obbligazioni per oltre 10.000 euro, e allora lui chiedeva perché. Ovviamente nel prospetto informativo c'è il taglio minimo della sottoscrizione, ma non il taglio massimo, ed effettivamente gli ascoltatori che ci scrivono e che ci stanno segnalando questo aspetto hanno ragione. È tutto probabilmente legato anche ad un discorso di adeguatezza dell'investimento, che è quell'aspetto disciplinato dalla direttiva MiFID, per cui evidentemente la banca valuta che per quel tipo di investitore non è il caso di mettere un portafoglio a Maria Adelaide. Esatto, di aumentare il proprio portafoglio con delle cifre diciamo anche esagerate, esatto, che non hanno un rischio poi rendimento adeguato alla sua, al suo profilo, peraltro evidentemente. Quindi a Giuseppe in banca non gliel'hanno spiegato bene, invece gli ascoltatori che ci stanno raccontando un altro colloquio con la banca, questi è stato spiegato molto bene, esatto, il motivo per cui oltre quella soglia di investimento non è possibile effettuare. Prima di tornare alle caratteristiche delle due tipologie di obbligazioni, volevo tornare a Maria Adelaide per un attimo, perché molti ascoltatori stanno sollevando dubbi su questa mole di debiti, si andrà verso la riduzione del suo debito dai 51 attuali ai 45 entro la fine del 2010, ma ricordiamo a cosa è servito indebitarsi tanto per questo allora gruppo. È servito per fare tutti gli investimenti, ma soprattutto per acquisire Endesa, che è diciamo il colosso, chiamiamolo così, elettrico, che è andato ad acquistare sul mercato, ed è per questo che nel corso di questi ultimi anni l'indebitamento è salito a dei livelli abbastanza elevati se lo guardiamo solo come debito. È chiaro che il gruppo ha diciamo riequilibrato finanziariamente e patrimonialmente la propria struttura facendo anche l'operazione di aumento di capitale, quindi raccogliendo risorse sotto forma di azioni a giugno dell'anno scorso, e quindi si è andato a riequilibrare quel rapporto che è il debt equity, patrimonio netto sui debiti finanziari netti, che è sceso da 1,90 a 1,28 alla fine del terzo trimestre 2009. A fine anno poi il debito, come abbiamo detto, si è attestato a 51 miliardi e le proiezioni sono appunto quelle di ridurlo. La domanda da farsi diciamo dopo questa emissione anche obbligazionaria è vedere la generazione di cassa di Enel per iniziare a diciamo soddisfare le proprie esigenze senza poi ricorrere di più al mercato. Al mercato, e diciamo che negli ultimi anni lo ha fatto diverse abbastanza, volte. Esatto, abbastanza in modo... Però insomma, come dire, gli investitori si sentono molto rassicurati da questa società, sicuramente per questione di reputazione, sì, molto, molto grande ovviamente. E però insomma sono comunque situazioni che generano in ogni caso anche dei legittimi interrogativi. Sentiamo invece cosa si aspetta da tutta l'operazione l'amministratore delegato del gruppo, sì, Fulvio Conti. Abbiamo estrapolato, individuato, ci è riuscita la nostra Gaia Romani, i giorni scorsi così documentando, si è trovato su YouTube questa intervista interna al gruppo che Fulvio Conti appunto ha rilasciato. Sentiamo allora questo piccolo stralcio. In questo momento i mercati finanziari richiedono un titolo come la nostra obbligazione, che può rappresentare un porto sicuro per tutti gli investitori, offrendo rendimenti sicuramente di grande interesse e rappresentando l'emissione di un'azienda come la nostra, solida e performante, quest'anno e negli anni a venire. La nostra azienda, credo che i numeri che porta avanti e che vengono approvati anche sulla base del 2009, in prospettiva del 2010, sono importanti. Il nostro rendimento sul capitale investito continua ad essere molto alto nonostante la crisi finanziaria ed economica che purtroppo ancora attanaglia il sistema economico mondiale. Abbiamo evidentemente le prospettive di poter gestire il nostro debito, il debito che è stato contratto per finanziare la grande espansione della nostra azienda. Ora abbiamo un mix di generazione, un mix di mercati tali per cui possiamo migliorare i risultati, come in effetti dimostriamo, anche in un periodo di crisi economica, e così contiamo di poter offrire dei rendimenti interessanti per i nostri investitori. Jacopo Ceccatelli, allora chiaramente Fulvio Conti non poteva dire niente di diverso, ma dal punto di vista dell'analisi indipendente, che è quella che voi conducete ovviamente, sono davvero rispetto, come dire, a ciò che sta accadendo sul mercato in questo momento, rispetto a quello che offrono anche altre aziende che stanno lo stesso collocando bond sul mercato, quest'anno ne arriveranno parecchi anche di bond societari, forse non saremo al record del 2009, ma non è detto che comunque molte aziende faranno ricorso al mercato. Allora, le condizioni di Enel sono interessanti? Allora, le condizioni di Enel sono interessanti soprattutto per gli investitori retail, perché appunto Enel ha da sempre fatto così una politica di grande attenzione verso questi investitori. Proprio l'episodio di prima sull'importo massimo che non è, diciamo così, che è stato suggerito al cliente ci porta su una problematica che su questo tipo di emissioni è molto diciamo così significativa, cioè il fatto che gli investitori privati hanno sempre più difficoltà di investire su titoli, su emissioni nuove, questo per tutta una serie di normative. No, anche perché se non mi ricordo male le obbligazioni societarie hanno mediamente dei tagli di investimento piuttosto elevati. Da 3-4 anni a questa parte, sì, prima non era così, adesso è una forma di tutela dell'investitore privato. Esatto, dopo Parmalat e Cirio è accaduto anche questo. Però questo poi ha avuto l'effetto, se vogliamo, collaterale, che c'è sempre meno carta, cioè c'è sempre meno emissioni che sono acquistabili dal privato, quindi retail. Questo tipo di emissioni di solito hanno un grandissimo successo, tanto più che Enel è un nome ovviamente in Italia estremamente conosciuto. Questa combinazione di fattori fa sì che le obbligazioni Enel in media siano tutto sommato rispetto ad altri emittenti simili un po' più care, cioè con un rendimento leggermente inferiore, proprio perché sono molto circolano molto sulla clientela retail. Quindi da un punto di vista, diciamo, strettamente dell'analisi, le emissioni Enel mediamente rendono un filo di meno di quello che a nostro parere dovrebbero. Le condizioni di queste in particolare però sono abbastanza generose nella forchetta, perché andiamo da rendimenti sul tasso fisso, in questo momento si va da un 3,43 a un 4,03, ovviamente cambierà molto se saremo sul lato basso o sul lato alto della forchetta. Se saremo vicini ai 3,5 saremo in linea con le emissioni esistenti, e quindi con rendimenti a nostro parere leggermente, diciamo, di uno 0,30 inferiore a quello che dovrebbero essere. Se invece saremo vicini al limite alto, l'emissione sarà sicuramente interessante anche da un punto di vista dell'analisi. Se però la corsa allo sportello, come sta avvenendo in questi giorni, continuerà, sembra già abbastanza possibile poter prevedere, Ceccatelli, che chiaramente la forchetta sarà più orientata verso il basso. Io penso proprio di sì, proprio perché c'è una grande penuria, ripeto, di emissioni di questo tipo per la clientela retail, il che ha creato una sorta di mercato a due vie, quindi quello che ho detto prima è vero in generale, però se andiamo a vedere le emissioni retail, comunque questo titolo sarà offerto a condizioni, diciamo così, interessanti per la clientela retail, molto meno per la clientela istituzionale, soprattutto, ripeto, se siamo sulla parte bassa della forchetta. Certo, allora il rendimento, ricordiamolo peraltro, sia di quelle a tasso fisso che di quelle a tasso variabile, verrà comunicato a 5 giorni dalla conclusione del periodo d'offerta, quindi dal 26 febbraio ai primi di marzo, lo sapremo, e poi spiegheremo anche, se riusciremo ad essere comprensibili, cercheremo di spiegare anche teoricamente appunto come si calcola questa percentuale di rendimento che ci indicava Jacopo Ceccatelli, perché dobbiamo per esempio per il bond a tasso fisso sommare al valore del tasso mid-swap a 6 anni uno spread che al momento è compreso fra lo 0,65 e l'1,25%, per cui un range, come diceva Ceccatelli, piuttosto ampio, e so che sono termini molto complicati, ma visto che state tutti correndo allo sportello per andare a comprare questa obbligazione, evidentemente tutti avete ben chiara la dinamica del calcolo del rendimento, cosa che invece a me è abbastanza complessa. Vabbè, comunque, a parte questa considerazione che lascia il tempo che trova, lasciamo adesso ritorniamo appunto all'obbligazione, però da un altro punto di vista, che questa osservazione volevo far sentire, questa osservazione di Giovanni da Milano, perché Giovanni, la sua è un'osservazione che in realtà stanno esprimendo in molti in questo momento. Buongiorno. Allora, la mia osservazione era: col prezzo attuale di Enel, sì, e con i dividendi che dà di solito, volevo sapere dov'era la convenienza, perché addirittura a me non sembra neanche conveniente. L'obbligazione, dice? Sì, a parte il rischio, naturalmente. Perché, dice, sarebbe più conveniente, per esempio, puntare sull'azione perché la ritiene sottovalutata? Perché ha fatto questo paragone? No, oggi come oggi, con 10.000 euro ha acquisto circa 3.000 azioni, che come prospettiva mi danno una prospettiva col prezzo attuale sicuramente a rialzo, anche se molto lentamente, come avviene di solito. In secondo luogo, per quanto concerne il dividendo, siamo a un livello direi molto prossimo, anzi insoddisfacente, chiamiamolo così, Giovanni, almeno per quanto riguarda il suo punto di vista. Senta, metto insieme alla sua anche la considerazione che su per giù, come dire, riguarda lo stesso ambito, la considerazione di Nando da Bologna, che saluto. Nando, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. E io sono sono abbastanza deluso dalle azioni Enel, e non capisco perché continuano a chiedere soldi, insomma. Io ho comprato le azioni Enel. Quando le ha comprate? Non so quanti anni fa, e credo che il loro valore attuale, compreso il 5% di bonus che era stato promesso a chi le conservava un anno, il valore dell'azione oggi dovrebbe essere attorno a 8,40 euro. Centesimo più, centesimo meno. Mi pare che siamo al di sotto dei... Siamo a 3,80, 3,85 stamattina, non so. Ma, adesso lo controllo subito. Dire, ma se un'azienda che fa gli utili, che sta facendo l'Enel, con tutto quel che segue, e l'azione è dimezzata di valore. Ho capito che c'è stata la crisi, tutto quello che vogliamo. Ma a me sembra che stiamo scherzando. Allora, Nando, fermo lì. Ci prendiamo due secondi di pausa. Facciamo fare un po' adesso a Maria Adelaide Marchesoni il lavoro per la quale l'abbiamo chiamato, cioè farci questa analisi praticamente dalla privatizzazione in avanti, come è andata l'azione. E effettivamente in molti si interrogano su questo, però oggettivamente le condizioni di mercato hanno inciso. Incide anche il fatto che qua stiamo parlando di un settore molto regolamentato, per cui anche il cambiamento continuo di normativa si abbatte mediamente su tutte le società che operano nel settore, quindi diciamo che oltre alle condizioni di mercato certe aziende hanno anche a che fare con altro, con business visibili, esatto, dal punto di vista dei ricavi, ma con un trend che è assolutamente lineare, cioè non è solo facendo acquisizioni e quindi pagandole, poi andando a indebitarsi eccetera, possono aumentare la loro massa critica. Allora, 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi. Questa mattina stiamo cercando di analizzare le caratteristiche di questo collocamento delle obbligazioni Enel. L'operazione è partita ieri, si chiude il 26 febbraio, dentro 5 giorni dalla chiusura del collocamento verranno appunto predeterminati i rendimenti, soprattutto per il bond a tasso fisso. Da che cosa partiamo? Allora, due considerazioni di due ascoltatori, Giovanni da Milano e Nando da Bologna. Sintetizziamo: totalmente insoddisfatti dell'andamento delle azioni. Tra l'altro un ascoltatore faceva anche dei suoi calcoli in base ai quali secondo lui adesso l'azione dovrebbe quotare 8,40 euro, ma c'è stato anche, come dire, un'operazione di raggruppamento di azioni, e quindi il prezzo si è dimezzato. E questo è successo nel 2001? Nel 2001, il 9 luglio del 2001 è stato applicato al prezzo di mercato un fattore di rettifica, come noi chiamiamo, pari a 2, i che hanno raggruppato le azioni e si è dimezzato il capitale sociale in circolazione. E intanto oggi Enel vale 3,83 euro, sta crescendo di circa lo 0,6-0,7%. Allora, 10 anni di privatizzazione, esatto. Maria Adelaide, noi abbiamo fatto con magre soddisfazioni, un vedo. Pochissimi, infatti non è che possiamo essere tanto soddisfatti. Nel senso che abbiamo valorizzato questo investimento al prezzo di ieri, che era 3,813, abbiamo considerato un'ipotesi di fedelissimo. Questa caratteristica di fedelissimo cosa implica? Allora, OPV 1999, quindi adesione prima privatizzazione, e alle due successive del 2004 e del 2005 le diverse bonus share e il reinvestimento di tutti i dividendi in azioni Enel. Che cos'è la bonus share? Questo bonus, bonus riconosciuta a chi detiene per un tot, esatto, chi deteneva l'azione per un tot di tempo le azioni Enel sottoscritte durante le privatizzazioni aveva dei regali, ok? E poi la sottoscrizione anche dell'aumento di capitale del 2009. L'aumento di capitale a giugno del 2009 veniva fatto un rapporto di 25 ogni 25 azioni, 13 nuove, con un prezzo di 2,48, un prezzo decisamente conveniente. Basso, perché sì, all'epoca il titolo quotava 3,75 euro. Beh, generalmente però gli aumenti di capitale, sì, si fanno mediamente sempre, sì, a sconto, sì, se no chi aderisce, certo. E tra l'altro anche quando sono a sconto hanno anche delle difficoltà. Vabbè, infatti, lasciamo perdere. Il rendimento allora di questo fedelissimo, quindi dal 99, è stato dell'8,69%. Tra l'altro la prima volta che avete fatto questa analisi, che è stata pubblicata da Plus il 6 febbraio, in quel momento per il fedelissimo il rendimento era un po' più alto, era l'11,26, avete, esatto, calcolato, quindi sì, al giro della, sì, settimana, sì, poco più. È un po' sceso, si è questo eroso ulteriormente. Esatto. Poi c'è un'altra ipotesi, sì, dove consideriamo il reinvestimento dei dividendi, la sottoscrizione dell'aumento di capitale del 2009, ma il sottoscrittore in questo caso, l'azionista in questo caso, non sottoscrive le successive privatizzazioni, ovvero quella del 2004 e quella del 2005. E il rendimento in questo caso sale 11,23. Jacopo Ceccatelli, come funziona invece il calcolo del bond offerto a tasso variabile? dell'obbligazione offerta a tasso variabile? L'obbligazione a tasso variabile avrà una cedola indicizzata al tasso Euribor, quindi il questo tasso lo conosciamo un po' di più del mid swap a 6 anni. Sì, ma diciamo che poi è la stessa cosa, di fatto il tasso Euribor e il mid swap sono un'espressione dei tassi interbancari. Nel caso dell'Euribor è un tasso a breve termine al quale si prestano denari. Il tasso swap è più espressione di uno scambio di è un po' come per i mutui, Ceccatelli. Se ci dobbiamo indebitare a tasso fisso, allora abbiamo un tipo di tasso, cioè per quello a tasso variabile invece c'è l'Euribor, in sostanza. Sono due tassi che hanno scadenze diverse, esprimono una tempistica diversa. Nel caso del tasso fisso, ovviamente una volta stabilita la cedola sarà quella per tutta la vita del titolo. Nel caso del tasso variabile invece sarà adeguata trimestralmente in funzione delle oscillazioni appunto dei tassi trimestrali. La maggiorazione rispetto a questo indice, cioè al tasso Euribor, sarà anche questo da 65 a 125, si chiamano basis points, che sono centesimi di punto percentuale, quindi in buona sostanza attualmente con un tasso Euribor attorno allo 0,65-0,66 avremmo un'espressione di cedola per la prima cedola dall'1,31 all'1,91 in funzione ovviamente dello spread che verrà applicato. Questa cedola però cambierà, e se i tassi saliranno salirà anche la cedola. Questo fa sì che ci infatti, sia infatti, e che è uno scenario abbastanza probabile, perché da qui a 6 anni i tassi di sicuro saliranno, perché cominceranno già a salire alla fine dell'anno. Probabilmente la BCE già a mezzo punto di rialzo lo farà, forse lo farà dello 0,25%, ma appunto in rapporto ad uno scenario sui tassi che andrà sicuramente restringendosi, nel senso della politica monetaria che si andrà restringendo. Ceccatelli, appunto, che ipotesi si possono fare sul rendimento del bond? Ma allora è chiaro che si parte da una differenza di rendimento, diciamo di cedola, di circa 2 punti percentuali, un po' di più. È chiaro che più tardi arriverà l'aumento dei tassi da parte della BCE, più sarà favorito il tasso fisso rispetto al tasso variabile. Chiaramente da un punto di vista, diciamo così, matematico, in teoria i due investimenti, se le previsioni verranno rispettate, dovrebbero alla fine risultare equivalenti, però si sa che non è mai così. Quindi se l'aumento di tassi che è previsto iniziare a fine dell'anno e continuare per almeno 3 anni, quindi 2011, 2012, 2013, effettivamente ci sarà, chi avrà preso il tasso variabile forse avrà sicuramente un aumento del flusso cedolare, quindi delle cedole, sì, e una stabilità di prezzo maggiore. Ad un'azienda che cosa conviene di più in questo caso Enel, ma ipotizziamo di parlare appunto di un'azienda in astratto, che emettendo appunto un'obbligazione con le medesime caratteristiche, conviene di più che l'investitore sottoscriva l'opzione fissa o l'opzione variabile, Ceccatelli? Ma di solito guardiamola dal punto di vista dell'azienda. Sì, di solito in queste operazioni l'azienda, che ovviamente si affida a gruppi bancari per diciamo così strutturare l'operazione e regolarla, poi decide a priori quanto fare di fisso, quanto fare variabile attraverso operazioni che si chiamano di swap, e quindi non credo che Enel si sia presa questo rischio. Sicuramente avrà deciso, io penso, per il tasso fisso, anche perché comunque per un'azienda finanziarsi a questi livelli a 6 anni è comunque interessante, però questo ovviamente non lo so, però sicuramente non si è lasciata questa incertezza, quindi ha già ben presente come si finanzierà. La banca sarà una sorta di tramite che fungerà, diciamo, da compensatore se ci saranno stati più tassi fissi di quello che voleva Enel o più tassi variabili. C'è un ascoltatore che chiede la differenza fra acquistare le obbligazioni in collocamento o sul mercato secondario. Ceccatelli, per gli indecisi, per coloro che magari vorrebbero tanto sottoscrivere adesso un'obbligazione ma magari non riescono a fare una valutazione corretta del rapporto rischio-rendimento, in sostanza, perché comunque il prospetto informativo è complicato, io sfido adesso a trovare un impiegato in banca che ci sappia spiegare bene quale potrebbe essere il possibile rendimento di un prodotto di questo tipo. Secondo lei aspettare che l'azione sia quotata, appunto, e quindi fare l'acquisto sul mercato secondario potrebbe essere un'ipotesi interessante? Ma sì, ci sono pro e contro. È ovvio che andando in sottoscrizione si ha la relativa certezza di avere almeno un po' di azioni al prezzo di collocamento. Se ci sarà moltissima domanda, non è escluso che il prezzo salga subito un po' dopo diciamo così il collocamento, però per contro si avrà la certezza della cedo, cioè si avrà la certezza di diciamo delle condizioni, cosa che in questo momento chi va non è possibile stabilire. 20 secondi di tempo, parlare di dividendi non ce la facciamo, Maria Adelaide. Quest'anno l'azienda che cosa ha promesso? Aveva già dato a novembre un dividendo di un acconto di 0,10 e nell'ipotesi per il 2009 è prevista una nuova politica di dividendo che prevede un payout del 60% dell'utile netto ordinario, quindi esclude qualsiasi forma di straordinarietà, di dividendo straordinario, esatto. Quindi non aspettiamoci almeno per il momento sappiamo che il payout sull'utile ordinario è del 60%. Grazie ad Adelaide Marchesoni, grazie a Jacopo Ceccatelli per essere stati con noi. Noi ritorniamo domani a Salvadanaio e ritorniamo su un altro monito, l'ennesimo che ha fatto il governatore Draghi questo fine settimana da Napoli. La commissione di Massimo Scoperto ha bacchettato di nuovo le banche. A domani.